due gemelle esatto. diverse. No, abbiamo fatto questa puntata perché volevamo che voi due vi incontraste. Francesca e Giulia. Io e mia sorella, dici. Esatto, sì, esatto. Francesca Mignemi e Elisa Mignemi avevano bisogno di incontrarsi, sì, allora gli abbiamo dato appuntamento, un appuntamento al buio. Piacere. Piacere. Qui a Radio Città Fisico. Ho sentito molto parlare di te. Anch'io di te. Anche noi di voi e Giulia Quadrelli, che è un po' che non viene a Coxo Spaziale perché esatto. in qualità di co-conduttrice è l'unica volta che decide di venire, non ha voce esatto. Quindi, no io ho voce, ho detto che il mio partner che doveva venire di cui padre. Faccio le veci e dunque abbiamo chiamato un sostituto che è Gabriele De Angelis che ci parlerà di non so. Ok. Fantastico. Io vado a braccio. Ci parlerà di vado a braccio. Fantastico. Allora io intanto che lo disegno perché oggi io sono Chiara Pergola e dunque sto disegnando il braccio di Gabriele. E dove stasera a W Pasquini? È al mercatino delle mutande delle mutande? Sì. C'era un mercatino di mutande, anzi ve la faccio vedere, ce l'ho qua in tasca. Ma davvero? No. Abbiamo davvero delle mutande, ve lo giuro. Abbiamo mutande. Bellissima, la falena, poi qua è il logo. Moscone. Ma se ti stanno quelle, fatto benissimo. Infatti, fantastico. Io non a proposito del discorso che facevamo fuori onda prima, quella frase, quella parola, quella cosa potrà mai. No, quella che c'è sulle mutande, Moscone. Caro. Moscone proprio. Moscone. Era scritta talmente. Wow. No. La posterò, sappiatelo, sallatelo. Okay. Sallatelo. Ho declinato. Diventeranno di tendenza più che Calvin Klein. Ma no, da dove vengono queste mutande? Vengono da un mercatino di mutande. E fin qui tutto okay. torna. Qua, non mi mettete in difficoltà. No, ma figurati, assolutamente no. Non. Da appunto mutande. Da mutande da. Se si può dire mutandis, no, parole tue mutandis. In parole mie da Moscone, seguitela su Instagram. Ah, okay. Okay. Quindi anche dei boxer? Anna si chiama, aveva un paio di boxer okay. Bianchi Però tu hai scelto di comprare no queste. Io ho scelto di comprare queste che però non possiamo postare perché non sono ti un regalo di no non posso ok non lo faccio la stavi già ero lì io sono sempre in agguato un attimo non sappiamo cosa dire no io in realtà abbiamo un altro jingle che è molto più serio azzeccato. Che è questo performance, ricerca, teatro. Che è quello che fanno Giulia Quadrelli. Ma chi era questa voce bellissima? Grandi upgrade da quando io latito comunque. No, cioè, molto meglio senza di me. No. In realtà è antichissimo questo. Questo viene dal primo anno di Coxo Spaziale. È Yumi che nel 2013 aveva 7 anni. No, 6 anni. Aveva 6 anni. Cucciolissimo. Perché naturalmente Giulia Quadrelli è qui a raccontarci qualcosa che non si può raccontare, che non si può. No, si può raccontare. Si può raccontare, ma non si può fare lo spoiler. Come Fight Club. Solo per. Sì, no, esatto. La prima regola di Narrando Boh è che non si parla di Narrando Boh. Esatto. Quindi sto zitta, cosa che mi viene benissimo. Però. No, cogitando? Ma no, non è che non possiamo parlare. Cocogitando. Ci siamo incagliati. No, non ti. Cioè, semplicemente ho detto non esageriamo perché è un primo studio quello che presentiamo domani. Noi Narrando Boh. Nello specifico a questo giro io Giulia Quadrelli con in scena Leonardo Bianconi e al progetto sonoro perché insomma come si dice Sound Project Leo Merati insomma il trio di base all'Oratorio di San Filippo Neri presentiamo un primo studio di questo nuovo progetto a cui quindi nessuno di voi è invitato per cui non okay. ci pensate nemmeno no voi voi se non proprio vi permettete voi che ci state ascoltando non siete invitati no siete cui. Invitatissimi però insomma siccome poi in futuro ci sarà una data più ufficiale quando il progetto si spera raggiungerà la sua forma definitiva adesso è proprio un'apertura non dico intima Pensa se dopo anni e anni passati a pubblicizzare delle serate in cui vengono 5 persone, questa volta vengono 200. No, perché sai com'è? È marketing anche quello. Nel momento in cui non potete venire a vederlo, tutti quanti domani si inventeranno che so, sarà alle 18, alle 20. Poi quando parli di studio, cioè si apre infatti un immaginario. Esatto, è questa parola magica. Esatto. Accende la curiosità. Un po' stiamo lavorando sulla scarsità, sull'esclusiva, e quindi tutti. Esatto, è una cosa un po' posti disponibili che, no? Esatto. Una cosa un po' chiusa per intimi, con degli inviti personali. No, non è vero. Percepisco le spinte fuori dalla porta. Esatto. Sono già tutti pronti. Esatto. Potrebbe essere un modo per far andare la gente a teatro. Esatto. È un problema al pubblico. Esatto. No, vabbè, a parte che se ve lo racconto può venire chi vuole, naturalmente, soprattutto voi. Anche perché gli studi, in realtà, uno dice che si può dire parolacce, mi ricordo. Sì, si possono dire. Cazzo, è uno studio in teatro. È lo studio dell'avvocato, in questo momento, che io penso solo agli avvocati ultimamente. No, è una prima fase di un lavoro, è il primo momento in cui, vero Francesca? In cui sì, metti in prova testi con, diciamo, spettatore numero 1/2, 3, 4, 5. Esatto. E provi un po' a testare quello che hai scritto e rapporto con la scena. È un po' come quando devi fare il bagno al mare, ma è il primo bagno della stagione e metti solo l'alluce dentro per vedere com'è l'acqua. Esatto. È un po', sì, è un tentativo per incontrare il pubblico, sapendo che stai dando in mano. Sono belli gli studi, in realtà, non è vero? Cioè, sono sì, ne ho visto uno. Cosa hai visto? Tu Costellazione? Costellazione Vicinelli, là dove è in culo ai lupi, non eravamo. Ovvero? A Zola Predosa eravamo. No, eravamo a Zola Predosa? No, Castel Bolognese, una roba del genere. Non eravamo a Zola Predosa. Vabbè, non me lo ricordo neanche più. Comunque, questa volta almeno è più comodo, è uno studio, è in via Manzoni 5, all'oratorio San Filippo Neri. No, infatti è una location di... Ah, no, è bellissimo. Sì, tra l'altro debutterà poi lì il lavoro. Ti ho visto anche lì, tra l'altro, ma non era uno studio. Facevi la presentatrice, studio. Tipo, no? Facevo una randobò. Facevi una randobò. Sparavo cazzate. Sparavo cazzate. Ma la distanza tra questo studio e il momento in cui la farete, cioè il lasso di tempo, quale sarà? È già previsto, no? Dici temporalmente o artisticamente parlando? Temporalmente artisticamente sarebbe una bella domanda. Esatto. E allora faccio la bella domanda. Ok. No, temporalmente diciamo che stiamo, non posso dire la data perché abbiamo uno scambio di mail in questo momento per pattuire il definitivo. Okay. Comunque si parla della primavera 2026. E nel frattempo farete altri studi? Nel frattempo vediamo come procede, vediamo come va domani intanto, okay. Se ci sono bisogno di altri step intermedi, cosa che è molto possibile, visto che appunto la prima spettatrice sul divano questa sera si è addormentata. E chi abbia problemi di insonnia domani può accorrere tranquillamente. No, basta metterli tutti in piedi. Esatto, a guardare. È vero, c'è da dire che era su un divano, per quello si è rilassata molto. Quindi questo. Ma racconto anche di che cos'è o facciamo chiacchierare anche gli altri? Perché sapete che io vado a rete. Tu puoi andare a ruota libera. Vado a ruota tu libera. Puoi andare a ruota io libera. Ho questo problema qua che non prendo aria. E, no, vabbè, presentiamo questo studio di questo nuovo lavoro che insomma fa meno ridere in teoria di delle cazzate che facciamo di solito, perché noi siamo un po' dei cazzaroni, però questa volta avevamo così voglia di raccontare una storia diversa. È un lavoro che si chiama Ondina e le altre storie di sport e di donne che corrono più veloci del loro tempo. Vero. Oh. Wow. E già qui vi siete addormentati, spiega perché sei ingubbiata sul divano. Allora, Ondina è storia di sport e di donne. Io la conosco, esatto, la storia di Ondina. Chi è Ondina? Eh no, te lo chiedo a te perché non me la ricordo, allora, però la conosco. Però però ho letto la storia di Ondina. Ero preparato. Ma non oggi. Ma sì, ma va bene. È anche il motivo per cui la raccontiamo, certo. Perché se raccontiamo una storia che sanno già tutti, dici, infatti. E poi si addormentano. No, e allora Ondina è la storia di Ondina Valla. Ondina Valla è una figura storica bolognese dello sport, mm-hmm. è stata la prima, ci ha lasciato da una ventina d'anni in realtà. Ondina Valla è stata la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi. In? Ever. corsa? No. In una gara che non esiste più, perché adesso si è allungata. Al tempo era la gara degli 80 metri ostacoli. Le donne correvano meno degli uomini, invece che fare i 100 metri ostacoli, correvano gli 80 metri ostacoli. E lei ha spaccato. Grande. Ha proprio spaccato. Mm. Però stiamo parlando non dell'altro ieri, del 1936. Ah, ok. Cascio. Esatto, quindi un po' di tempo fa, però insomma ci ha un po' conquistato questa, in realtà, perché stiamo narrando un po' noi qualsiasi cosa riguardi Bologna, dai tortellini all'atletica ci prende di solito. E dopo possiamo parlare del canale, allora. No, perché no. Ho detto motivi personali, non posso parlare di quella zona fino a lunedì 15. Trigger in corso. Ma invece le altre, che chi sono? Allora, le altre è perché sono in altre realtà sportive oppure sì. Altre. Allora, la premessa è che io vengo da una famiglia di fomentati con lo sport in tanti sensi. E quest'estate ho ripreso un po' queste abitudini della mia infanzia di guardare sport a tutte le ore del giorno e della notte. Mi sono molto intrippata con lo sport femminile, perché all'improvviso, dopo che nessuno se lo fila mai di Striscio, c'erano gli europei non di basket. Non avrei mai detto che tu appassionassi di sport come femminile. No? Era una battuta. Era una battuta. Dici perché sono delle fustone, no? No, allora, sì, vabbè, alcune sono anche delle ragazze interessanti. Il pallavolo, si guarda volentieri. Pallavolo, il basket. Mi mette l'imbarazzo. No, scusami. Delle fustone. No, mi sono intrippata perché c'erano gli europei di pallacanestro a Bologna. Siete venute. Queste fustone le ho viste qui, proprio viste qui? In prima fila. Okay. E ho iniziato a seguirle, poi sono andate avanti, le ho seguite, hanno vinto il bronzo agli europei facendo una roba incredibile. Poi dopo ci sono stati gli europei di calcio, vabbè, non sono andate così bene le italiane, però anche lì sono andate parecchio avanti. Poi c'è stato il mondiale di pallavolo e patapim e patapam, poi c'è la Cinzia, mi guarda, mi dice, ma che cazzo? No, ho seguito tutto. E poi ci sono state, vabbè, dall'anno scorso le Olimpiadi con la Paolini Lerrani. Insomma, io mi sono fomentata di brutto, ho detto, buona, facciamo uno spettacolo, non sempre sulla solita ricerca e cose come quelle precedenti, facciamo una roba più sportiva. Sì, decore sullo sport. Quindi le altre sostanzialmente sono delle sportive di oggi, che non domani, perché domani raccontiamo la storia di Ondina, ma nella fase successiva andremo a fare delle video interviste di atlete di oggi, attive, campionesse di basket, di pallavolo, di calcio, speriamo di tennis, paralimpiadi, pugilato. E le video interviste poi dialogheranno con la drammaturgia dedicata a Ondina Valla. Ondina. Molto bello. Che ci ha lasciato, hai detto? 2006. Il 2006. Ce ne aveva, comunque. Sì, sì, sì. Perché invece, ahimè, ci ha lasciato Alberto Despini, che era venuto qui a ospite a Coxo il 14 giugno 2021. E l'ho letto ieri su Facebook e mi è dispiaciuto molto questa cosa, perché invece lui era super giovane ed era un grande cantautore. E dunque sono andato a scovare la sua canzone preferita da me, che ti ho perso. Ascoltiamola con un po' di è così che ti ho perso, rovesciando un bicchiere d'acqua, così riempito fino all'orlo, e così vuoto, è così che ti ho perso, camminando con occhi lontani così, con i piedi vicini così, a lunghi passi, è così che sono perso, continuando a vederti qui, così vestita di buono, così bella, è così che ti ho perso, assolutamente. completamente immobile, usando parole così senza far rumore. A meno che sei qui, a meno che mi illumini così. Sembra ieri che, sembra oggi. È così che ti ho perso, sorseggiando il tuo dolore, salvandoti sconfitta. E così sola, è così che ti ho perso, rubando il tuo tempo così, aspettando qualcosa così, e poi per niente. A meno che sei è così che ti ho perso, continuando a vederti qui, a meno che mi illumini così. Sembra ieri che, sembra oggi che. Pezzo questo, eh? No, dice, stavamo parlando della linea della linea dell'autobus 27 in questo momento. Ma io ho una domanda per te, Gabriele, si può dire, no? Certo, che guidi, che questo mese guidi il 27. Ultimamente, cioè adesso ultimamente, forse tipo negli ultimi 20 anni, ma vi stanno rompendo i coglioni di più rispetto a prima, perché mi sembrate un po' più, cioè una volta gli autisti di Bologna degli autobus erano proprio polleggiatissimi, super tranquilli, si fermavano sempre per tutti, e invece ultimamente vi vedo che andate un po' più spediti e siete un po' più sclerati anche con le bici alle volte. Allora, i fattori sono tanti: primo, più traffico. Mm-hmm. Secondo, più mezzi, nel senso diversificati, monopattini. I monopattini sono un disastro. Poi Nacho li odia. Sono d'accordo con tipo Nacho. Una cosa che capita spessissimo, quella gente magari non pensa, è che quando si esce dal portico, tu da lì non lo vedi. Cioè, certo, ci sono le... È come se sponasse nei videogiochi, sì, no? Sì. Esatto. No, infatti ci sono alcuni passaggi pedonali che ti devi quasi fermare anche se non c'è nessuno. Tipo in via Marconi, eccetera. Ma poi ci sono tantissimi mezzi, mobike, cioè il traffico è tipo quintuplicato. Cioè, mi ricordo quando ero piccolo, nella mia famiglia avevamo una macchina. Adesso minimo 3-4, cioè una cosa... E poi un po' tutta la viabilità, cioè adesso vedremo con il tram se può migliorare o meno. In alcune zone secondo me sono state rivalutate, tipo Rivareno, adesso hanno fatto il canale all'aperto con il ponticello. Oh, a me mi piace. No, Giulia, tieniti. Vai. Taci. Ma poi guiderai anche il tram, che tu sappia. Una volta come che lo completano, potresti prendere l'abilitazione, okay. Pensavo di sì. E poi, bello. Ma ci vuole una patente da tram? Sì, sì, sì. Ok. Cioè il tram ovviamente va solo in una direzione, però non è così facile come la gente pensa, intanto perché comunque le sollecitazioni sono diverse. No, infatti. Cioè sulla gomma è molta più, il tram è il tram. Cioè sì, non che sia scomodo, però cioè, ci mette molto a frenare, ma ci mette molto anche a partire. Ci mette tantissimo a frenare. Ma tantissimo a frenare. Sì, sì. Io ho un po' paura della gente che gli si lancerà sotto. Io ho più paura peccato per le rotaie. Ho visto un sacco di gente in bici che ci si è piantata. Ah no, io la prima volta che ho preso una mobike a Torino, cioè proprio ho preso la mobike e mi sono piantato lì e sono volato per terra subito. Decavolato. Un problema è successo a Milano. Ma cioè, basta solo prendersi la mano, ma okay, a Bologna i bolognesi. Vabbè, poi dipende, beh, se no, è una città universitaria. Io adesso ho già imparato a non cascare. Basta non recidivare. Ma io ero convinto che le ruote della mobike fossero più larghe del, cioè, e invece no, no. Si incastrano perfettamente. Hai voluto fare la prova. È d'estate, ma d'inverno c'è quella morchia, quella roba che non vedi bene, no? No, certo. Poi scivoli. No, pure. Il dramma secondo me è quando ti chiudono dentro la rotaia, cioè per cui lì è... Vabbè, dopo sì. E lì è un po' tocca di frenare stavolta, cosa che le bici non fanno molto spesso. No. Ma una curiosità riguardo il rotaie e tutto il resto, insomma, ma nelle zone dove non come Rivareno, dove non puoi andarci con la macchina per forza, Ugo Bassi tipo, ci sono le rotaie, ma le macchine e gli autobus passeranno ancora? Ah, questo in realtà non neanche tu hai la esatto. Neanche tu hai la l'indiscrezione. Teoricamente alcune zone dovrebbe passarci il tram e dovresti fare la parte che non viene toccata dal tram. Ok, quindi il tram si ciuccia via tutta una serie di traiettorie, sopra dire trattorie, avrò fame, non lo so. Una serie di traiettorie e tutte le altre. Penso che, poi dipende dal sindaco questo. Okay. L'idea sarebbe di, per la mobilità, per la sostenibilità, di il centro, dillo. Il centro favorire il trasporto pubblico. Basta queste macchine, esatto. Basta, telefonate, insultate, non ci stanno esatto. Più. Basta macchine, non le vogliamo. Beh, odiatori di biciclette, scriveteci al 333 180 94 94 così più noleggiate, corrente Rai Mondo. Anche c'era anche il bonus Renzi per i monopattini, mi pare. Mm. Ecco, sì. Basta anche i monopattini. Ma invece sai chi ci ha scritto? Chi ci ha scritto? Buongiorno! Mi mancava. In ogni caso è sempre un'emozione, è un'avventura o è una poesia scritta così. In ogni caso è un'esperienza virtuale, ma sarà forse così. Da Marco Roma, buongiorno! Bella. Scatta l'applauso per Marco Roma che oggi era veramente carichissimo. No, martedì scorso. Ah, martedì scorso. Cavoli, è da una settimana che non manda un vocale. Ci ha ascoltato la puntata e il giorno dopo ci ha pensati. Ha dopodiché fatto bene. Stop. Come quello, il Dante di cui avevamo bisogno, no? Esatto. No. Beh, sentilo, Marco Roma mi mancava, veramente mi ha rallegrato il cuore. È come quella tipo, non so, Bologna è qua, Modena, Marco Roma, no. C'è nel cuore. Esatto. Marco Roma. Tutte le strade portano a Marco Roma. Esatto. Bellissimo. Top questa. Bellissimo. Tutte le strade portano a Marco Roma. 333 180 94 94 se volete parlare di teatro o di via qualsiasi cosa inizi via Rivareno. Esatto. Ma c'è anche la pubblicità in realtà. Ah, hai ragione, sono le 20 e 30. Sono le 20 e 30. Scatta. Ci vediamo dopo. Cox spaziale. Ah, no, certo. Sì, sì. Le disavventure. Scherzetto. Comunque, posso dire che... Non so se siamo là, ve lo dico. Sì, sì, lo puoi dire. Prossimo spettacolo... sugli autisti degli autobus. Sugli autisti degli autobus. Io sono disponibile per feste e compleanni. No, no, prossimo. Beh, già... Io conosco una brava sceneggiatrice che potrebbe scriverlo. Se volete, sono anche sceneggiatore. Vabbè. E allora è proprio la puntata perfetta questa. Invece. Ci possiamo scambiare? No, però posso imparare. Odio guidare, però dai. Sì, ma non è vero, cioè io non ti conosco, però ok, hai sentito dire che guido male. No, guidi provetto. Bene. Vabbè, dai, sì, anche se non ho mai guidato a Bologna. Non è una bella esperienza. Per ora solo piedi, neanche bicicletta. Beh, è più facile guidare a Bologna che guidare a Torino, comunque. Beh, a Bologna tutti hanno una bicicletta, quindi... Io non ancora, pensa che sfigata. Ah, wow. Però io conosco una che le vende. Chi? Lei. No. Io? No. Tutti i miei guardati. No, no, sono io. Non è lei questa volta. Sembra quella Chiara. Adesso che mi ci fai pensare. Nel lontano 92 ho aperto un negozio di bicicletta. Visto che è una sportiva, ho pensato avesse la collezione di mountain bike. Sembra quella cosa. È mio cugino. No, mio cugino. Gestisce. No, effettivamente noi abbiamo non sei mai venuto a casa nostra. Abbiamo una quantità di biciclette, ma non perché io. Perché le collezioni. Perché mia moglie, nel cliché, insomma, lesbo per antonomasia, c'ha una quantità di biciclette che servono ognuna. Una quando c'è la pendenza di un millimetro, una quando c'è la pendenza di 4 millimetri. Avevo un amico che aveva la bici, ma costava tipo 7.000 euro. Sì, sì. Cioè, sono telaio. Tanto, no, davvero, sì, sì. Telaio. No, no, ci sono bici che così costano tanto, così. No. Cioè, quando me l'ha detto, però certo. E dove la tieni? Il mio motorino era costato 3.000. Vabbè, era usato, però ho fatto la proporzione. C'è il quartetto post rock noise belga italiano Motueka, originario di Arlon. Tu sai dove è Arlon? No, France. Ah, io non lo sapevo. No, Dio, ho non lo so, c'è scritto belga italiano, forse Arlon è in, magari è una provincia, belga francese, ma non lo so. Che ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo album che si intitola Pareidolia. Bello! Bellone. Quello di vedere le facce negli oggetti, no? Esatto. Esattamente. Mamma mia. Ma poi io sto facendo la voi pensate che ma prima avevi fatto anche il classico? Hai fatto Minghetti? Sa tutto. Pareidolia. Fatto Minghetti? No. No, non ha fatto Minghetti, però sa tutto. Insomma, sta questo gruppo. Ci ascoltiamo i Guardiani del Tempio e ringraziamo Francesco che ce l'ha mandato. Dicevo che poi ci possiamo anche parlare un po' sopra questo pezzo. Ah, va bene. Lo stiamo facendo. Se tu vuoi, naturalmente. Sei tu che fai la regia, io. No, ma io. Sembra quelle domande di scorsa, sai mentre lo fai. Esatto. No, perché è bello, ma è bello anche parlarci sopra ogni tanto alla radio, no? È bello sto pezzo. Abbastanza rock. Abbastanza incattati sti franco-belgi, italo-franco-belgi. Hai detto che si chiamano loro? Loro si chiamano, dove l'ho messo? Motueka. Motueka, si dirà Motueka o Motueka. Questa è più semplice della, della scritta sulla borsa. Della pareidolia. È vero. Infatti c'è una borsa con scritto scemo chi legge in tedesco. Sì, sì, esatto. Ci abbiamo messo un po', però. Cioè, siamo l'abbiamo decifrato. L'abbiamo decifrato. E dunque. E quindi. E allora? Insomma. Esatto, non possiamo neanche. Un altro argomento con la T, come era? Lei i tortellini, no, i tortellini non abbiamo parlato dei tortellini. Te ne abbiamo già parlato, esatto. Perché vado delle però secondo me è un argomento che fa che va sempre bene. I tortellini, no, la tetta. Come? Cosa mi potrai mai dire? No. Cosa ci dici delle tette, Giulia? No, basta. Basta tette. Ho fatto monologhi su questo. Ma invece chiediamo a Francesca dei tortellini. Hai assaggiato Oddio, i tortellini? Io sono vegana. Come ma tu sei... Io ti devo ci portare sono in un i tortellini posto. Vegani. Sì, cioè, pieno di posti che fanno i tortellini vegani. No, la Camilla Bruni, detta anche una Camilla contemporanea, ha fatto tutto un post sui tortellini vegani. Vi prego. E pare che il migliore sia. Adesso lo devo andare a cercare. Zia Allari. Zia Allari a Granarolo. Esatto. Okay. Però qualche onnivoro può assaggiare e dirmi se effettivamente ricorda. Amo, te lo giuro. Ok. Te lo giuro che va bene. Ma vegani o vegetariani? No, vegani. Vegani fatti con seitan. Dipende, adesso mi stai chiedendo troppo. Alcuni sì, altri no, dipende. Alcuni hanno solo, che ne so, funghi e verdure dentro. Subito dobbiamo. No, però vi assicuro che quelli di Zia Allari. Allora, intanto è una trattoria in cucina tipica bolognese. Ma possiamo fare queste marchette? Quindi c'è anche la ma non è. Cioè, non ci paga nessuno. Però se volessero farci uno sconto. Ed è per tutti, nel senso che chi vuole mangiare la carne può mangiare la carne, e chi vuole mangiare vegano può mangiare la carne. Mangia vegano. No, comunque a volte i vegani ti sorprendono. Avevo un vicino prima di trasferirmi che faceva i muffin più buoni che abbiamo mai mangiato. Vegano? Perché ma si perché? Possono fare un sacco di cose. Tutto. Io dicevo, ma questo è il cioccolato? Fa no, non è il cioccolato. Però non sarebbe vegano se non aveva degli ingredienti che sembravano. Ma allora io devo dire, sono circondata da vegana, la mia migliore amica è una cuoca vegana, quindi devo dire che cioè, non ti vizio. Perché tu non sei molto vegana, o sbaglio? Sei vegana? Io no. Sono stata vegetariana per 5 minuti, 7 anni della mia vita. Tra pranzo e cena. Mi devi distrattare così. 7 anni della mia vita vegetariana. Ah, beh, poi è arrivato il Covid e dopo COVID. Una settimana mi è venuta voglia di prosciutto. Così? Ah, no, ci vabbè, onesto, però dai. Ti sei reso troppo presto. Comunque c'è il prosciutto anche. No, io mi sono ricordato del bacon vegetariano di Tesco che mangiavo in Inghilterra. Ed è buonissimo. È buonissimo, sì, in effetti, però. Anche qua ci sono adesso, comunque sì. Presa aula vegana. Mm-hmm. Ma anche il bacon da friggere, perché sì, in Inghilterra si frigge anche il bacon. Anche se lo sai che tutti i prodotti vegani adesso, non so se è passata la legge, sì, non si possono più essere. Non possono più avere. Non si può più dire hamburger vegetariano. Esatto, no. Bisogna dire medaglione. Quindi ricordatevi la prossima volta che volete mangiare le palle di Mozart, che esatto. È un tipico dolce. O lo spaghetti allo scoglio. O gli spaghetti allo scoglio, sappiate che è illegale chiamarli così. Perché poi gli spaghetti agli olio peperoncino è un piatto vegetariano. Vegano. Cosa vabbè. Dite? E quindi io direi che... L'angolo della menzione. Porca puttana, è venuta l'angolo della menzione anche stasera. Ma guarda che veramente. Cicchigna. Una roba veramente. Chi parte? Mercoledì. Io non parlo. 10 okay. dicembre alle 10. L'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna ospita l'incontro dal titolo Le forme del volto, a cura del prof. Gabriele Lamberti, con la partecipazione di Riccardo Falcinelli, autore di Cromorama, come il colore ha cambiato il nostro sguardo. Figure come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram e altri testi su design e neuroscienze. L'ospite, partendo dal suo ultimo libro Visus, storie del volto, dell'antichità al selfie, tratterà il tema del volto nelle arti visive e dialogherà con gli studenti su ritratto, percezione e comunicazione visiva. Tutto ciò in Aula Magna, l'Accademia di Belle Arti di Bologna, in via delle Belle Arti. Non ve la diciamo 54. Più la via, però. Però Bologna lo dobbiamo dire. È vero, infatti. La via dell'Accademia di Belle Arti. La via dell'Accademia di Belle Arti è ormai via Belle Arti, però 54. Del... Sempre mercoledì, praticamente alla stessa ora, ovvero dalle 11 alle 13, presso la sala conferenze Mambo, Museo Morandi, si terrà il convegno Centro Studi Giorgio Morandi e Comitato per il Catalogo Morandi, attività e prospettive future. L'iniziativa sarà introdotta da Lorenzo Balbi, direttore del Museo Morandi, in dialogo con Marilena Pasquali, fondatrice e presidente del Centro Studi Giorgio Morandi. Interverranno inoltre Paolo Bolpagni, Luciano Pensabene Buemi, Pietro Lenzini e Mattia Patti, studiosi che insieme alla presidente compongono oggi il Comitato per il Catalogo Morandi. Tutto questo alla sala conferenze Mambo in via Dominzoni 14 a Bologna. Mi dispiace che quel giorno lì sono a Milano, perché questo qua, cioè, in realtà sarebbe, anzi, sono contento di essere a Milano perché non saprei in quale dei due andare, perché sono uno più interessante dell'altro questi due incontri. Ma sai me. Che ce ne sono altri di incontri? Di sempre dicembre. Mercoledì, esatto. Alle ore 17. Alle ore 17. Incontro in Aula Magna dal titolo Lines of Attention, Lines of Creation, The Work of Art in a Possible World, di Timothy Ingold. Kent, 1948. Antropologo britannico e professore ermetico all'Università di Aberdeen. Ermetico? Emerito. Emerito. Ops, poteva essere anche ermetico. Anche professore ermetico. Anche ermetico. Emerito. Qual è il problema? Parlare emerito. Le sue ricerche si concentrano sulla percezione dell'ambiente, sulla creatività e sulle relazioni tra esseri umani, animali e tecnologia. Indovinate, all'Aula Magna. All'Accademia di Belle Arti, via delle Belle Arti 54, Bologna. Guarda, te l'ho fatto dire solo perché... Sempre mercoledì alle 18.30, stavolta abbiamo la presentazione del libro Le atrocità di Mussolini, di Michele Palumbo, un libro che era stato stampato e poi mandato al macero da Rizzoli nel 1992. Scusate, non è Michele Palumbo, è Michael Palumbo, perché è un italo-americano. Ivan Serra, autore della postfazione, ne parla con Jadel Andretto e Mariana Califano di Resistenze in Cirenaica. Tutto questo a modo InfoShop in via Mascarella 24B a Bologna. Mercoledì 10 alle ore 20.30 al Teatro Fabbri di Vignola, Modena, abbiamo Action Box per Orchestra dei Castelli, una scultura progettata ad hoc di Irene Tabanelli. Con questa operazione Irene rilancia l'interazione tra teatro e arte contemporanea, ibridazione, cura, slancio e azione nel paesaggio pubblico. L'atmosfera, la comunione e l'odore si fondono per un intervento progettato site-based in dialogo con l'Orchestra dei Castelli. Action Box attiva la tradizione orchestrale con un'azione performativa in dialogo tra musica e scena. Tutto ciò al Teatro Fabbri di via Minghelli 11 a Vignola. Anche questo sarei andato a vedere se non ero a Milano. Invece sei a Milano. Rimango a Milano. Giovedì 11 dicembre alle ore 18, nell'ambito del progetto Collezioni in Collezione, un ciclo di appuntamenti dedicato all'incontro tra la dimensione pubblica del museo e il mondo delle collezioni private, giovedì nella Biblioteca Mambo si tiene il terzo dialogo che vede coinvolti Caterina Molteni, curatrice del museo, che salutiamo, e i collezionisti italiani Anna Grazia Stefani e Francesco Tampieri, che sono stati qua a parlarci di questo progetto, insieme all'artista Cristian Chironi, Nuoro 1974. Tutto questo nella Biblioteca del Mambo in via Dominzoni 14 a Bologna. Era Nuoro e andrei avanti. Oh, scusate, grazie. Guardalo il sassolino che si è tolto. Ci sta. Giovedì 11 alle ore 18.30 il Museo Lercaro presenta Venire alla luce, il nuovo progetto del duo artistico Antonello Ghezzi, nato da un'idea del 2020, durante il periodo del lockdown. Impossibilitati a frequentare lo studio, gli artisti hanno trasformato lo spazio aperto, campi, cielo, sole e natura nel loro laboratorio. La nostra salvezza è sempre stata l'immaginazione, la capacità di vedere ciò che non è ancora visibile, affermano gli artisti, in sintonia con il pensiero del fisico e premio Nobel Anton Zellinger. Il mondo è tutto ciò che accade e anche tutto ciò che può accadere. Tutto questo al Museo Lercaro in via Riva di Reno 57 a Bologna. Per non farci mancare niente, sempre giovedì, sempre alle 18.30, abbiamo la presentazione del libro Abolire l'impossibile, le forme della violenza, le pratiche della libertà, di Valeria Verdolini. Giulia Fabini ne parla con l'autrice. Il libro analizza la storia della violenza, la parte che ha nelle istituzioni e i modi in cui si può presentare. La violenza fisica è soltanto l'aspetto più evidente del fenomeno, perché c'è un filo rosso che collega la storia della schiavitù alla nascita del capitalismo, il colonialismo alla costruzione dei confini, l'emarginazione degli ultimi alla nascita della cittadinanza. Tutto questo da Modo Info Shop in via Mascarella 24B a Bologna. Venerdì 12 dalle 17 alle 20 si inaugura Microcosmi, mostra collettiva di piccole e piccolissime opere verticali, tra cui un lavoro record di soli 1 per 1 millimetro. Wow. Gli artisti invitati sono stati stimolati a confrontarsi con il formato più minuto compatibile con la propria tecnica, cercando dove possibile di non superare la soglia dei 10x10 cm. Tutto questo allo studio La Linea Verticale in via dell'Oro 4B a Bologna. Stavo pensando al coefficiente di un'opera un millimetro per un millimetro. Vabbè, impegnativo. Coefficiente, spiegami. Il coefficiente è... coefficiente artistico. Il coefficiente artistico è, okay, è praticamente quando un pittore, perché si applica nella pittura, ha un coefficiente che sarebbe di un centimetro quadrato. Anche nella fotografia. Sì, è vero, si usa anche nella fotografia. Un po' meno, però sì, si usa anche nella fotografia. E praticamente... un millimetro per un millimetro. Sì, no, il quadro... sì, no, il quadro è un millimetro per un millimetro, però il coefficiente si calcola nei centimetri. Per cui, che ne so, se tu hai un coefficiente 1, un quadro 50x70, vale un tot dipendentemente da quanto da quante allora praticamente finta di aver il prezzo del cioè il valore dell'opera lo calcoli, non è a caso, e va in base alle dimensioni, quindi base altezza più un coefficiente che dipende appunto da dal curriculum dell'artista in questione. Ma quindi stiamo parlando di qualcosa di valore monetario? Sì, certo. E certo, quello dei soldi. Non lo so, coefficiente per me è ancora quello della scuola dove... Vabbè, quello. Io, quello. Cioè, io incastrerei, scusate, incastriamo. Una menzione tra quella di prima e quella che è prevista. Quella che sto per parlare. Esatto. Okay. A proposito di pareidolie, venerdì 12 inaugura dalle 18 un'esposizione fotografica di chirurgia visiva chiamata Bologna come non l'avete mai vista, del poeta Errante Marea. Tutto questo alla Galleria Il Punto in via San Felice 11A a Bologna. Olè. Dopo poi me lo devi dire che aggiungiamo anche a coxospaziale.blogspot.com, che ormai sta diventando la Bibbia di chi vuole andare a vedere le inaugurazioni. Abbiamo anche una mappa, un maps è vero, pronto. Infatti, va è vero. Che è lunga ancora qua. Le allora, venerdì 12 dicembre dalle 19 alle 23, naturalmente la nostra cara gelateria Sogni di Ghiaccio presenta In Actual, progetto editoriale dedicato a teoria critica, tecnologia e arte contemporanea, fondato da Christian Nirvana D'Amato e Giovanni Russo. Con Print Section, In Actual porta nello spazio un evento che mette al centro il processo di stampa in un dialogo diretto con il pubblico. Tutto questo naturalmente alla gelateria Sogni di Ghiaccio, che inaugura tutti i venerdì, nel caso non abbiate capito, in via Tanari Vecchia 5A a Bologna. E sabato 13, complice il magnetismo del... il magnetismo del prossimo passaggio ravvicinato della cometa natalizia 31 Atlas, Galleria Portanova 12, Onirica, Magazzino Art Gaze, Boa Spazio Arte e Electro Bau Bar lanceranno all'unisono una serie di eccezionali iniziative mirate a far implodere tutta la potenza della ricerca e della sperimentazione artistica contemporanea dell'orbita supernova. Le gallerie e gli spazi creativi osserveranno orari speciali di apertura e agevoleranno i visitatori nell'orientarsi tra le varie stazioni creative del distretto supernova. A Boa Spazio Arte Light Breakfast dalle 11 del mattino. In occasione del secondo anniversario della galleria, Wunderkammer riunisce le opere degli artisti rappresentati in un progetto corale che assume la forma di un archivio di meraviglie contemporanee. Tutto questo al Boa Spazio Arte in via Barberia 24A a Bologna. Sabato 13 dicembre alle 18, Mega 2 presenta la mostra personale di Bianca Schröder, Brand Pictorico, una concept collection che attraversa pittura e indumento, tele cucite sui capi, serialità, identità, ambiguità, pittura camicia, pittura mutanda, pittura brand. In mostra anche un dialogo con Vaticana di Andrea Renzini e Silvia Spada, pubblicato dalla collana Aosta Publishing per Mega 2. Tutto questo a Mega 2 in via Mascarella 16A a Bologna. E chiudiamo con domenica 14 alle 18. Vi invitiamo tutti all'inaugurazione della mostra di arte contemporanea Anima, dove giovani artisti di Bologna, fotografi e scultori mostreranno l'energia dello spirito e dell'anima in vista del Natale. La mostra sarà aperta fino al 14 gennaio 2026. Le Donzelle Flu Art, questo è il luogo, in via Montegrappa 7B a Bologna. Olè. E queste erano le menzioni della settimana che, come al solito, ci impegniamo a leggere nel peggiore dei modi possibile. Ma con tanto amore. Con tanto amore. Con Ma tanto, con tanto amore. Amore. Ma ne posso aggiungere una? Certo. Certo, devi aggiungerne una. Ti abbiamo perché? Chiamato perché qui a proposito di teatro, domani a Modena, al a Teatro Modena. Delle Passioni, debutta uno spettacolo che sarà sicuramente bellissimo, si chiama Tristano e Isotta, con la regia di Virginia Landi e la drammaturgia di Tatiana Motta, che sono due bombe a mano, due mine con cui Virginia Landi è una mia collega, abbiamo lavorato insieme, è stata la regista di tutti i miei testi praticamente, e Tatiana ha vinto il premio Riccione per il teatro qualche anno fa, è un'autrice bravissima e consiglio di andare a vedere. Grazie. Al Teatro delle Passioni. Al Teatro delle Passioni. Nel caso non si fosse capito, perché non si è capito, Francesca Beniami è una bravissima drammaturga teatrale. Ah, non, sì, non l'avevamo detto. Adesso drammaturga sembra una, ho capito che guidava l'auto. Sei adesso sei adesso, sì, sei adesso l'abbiamo detto adesso sei detto. Ufficialmente non c'è tempo di farti delle domande, ma tornerai tornerò come sì, bolognese. E io ricordo domani di non venire. Di non venire assolutamente. Non ci sono posti. A che ora? Ore 20, alle ore 20. Non venite in via Manzoni 5. All'oratore San Filippo Neri. Esatto. A vedere il nostro primo studio su Ondina Valla e Ondina lo sport Valla. Femminile. Ondina e le altre. Ondina e le altre. Bene, io direi che siamo arrivati alla fine. Come al solito vi ringraziamo, non per l'ascolto ma per la pazienza di questo strazio durato un'ora. Si può fare un saluto veloce, è un po' da boomer però. È un po' da boomer, ma si può fare veloce. Vai. Volevo salutare Letizia e poi volevo salutare Gypsy e tutta la sua splendida famiglia che sicuramente ci staranno ascoltando. Ah, vedi. Grazie. Ciao Gypsy, ciao Gypsy. Io invece volevo salutare gli amici di Panta 80 che ci stanno scalpitando per cominciare la loro trasmissione. Allora noi salutiamo. Salutiamo. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla.